Ora vediamo un po' dal punto di vista cabalistico. Noi siamo sempre, c'è la domanda che tutti si occupano a livello filosofico, perché i cattivi stanno bene, i buoni stanno male, e tutto questo discorso qua. Hai toccato il tasto. Qui lo vediamo oggi in questo testo. Già ne abbiamo parlato del concetto di quello che viene dall'esterno, quello che è la volontà interiore, quello che è la volontà esterna, eccetera. Ora lo vediamo da un punto di vista, tra virgolette, tecnico-cabalistico. Come funziona a livello del flusso della energia divina che è trasmessa dall'alto verso tutte queste direzioni? E com'è possibile che venga trasmessa questa bontà, questo bene, in un volume ancora maggiore laddove non si fa la volontà di HaKadosh Baruch Hu, rispetto a laddove invece si mette in atto la volontà di HaKadosh Baruch Hu? Come funziona questa cosa a livello tecnico? Allora qui lo affrontiamo un po' da questo punto di vista cabalistico. E il testo dice così, il secondo capitolo dell'ottavo discorso del nostro Kuntres Umayan. Veine ha'ashpa'a mi bechinat rav chesed, quando si parla nella Torah ver rav chesed ve'emet, che lo diciamo nel Tachanun, no? Rav chesed, cioè una beneficenza grande, maggiore. Si intende ha'ashpa'a beribui, che HaKadosh Baruch Hu dimostra da un flusso ribui, multiplo, ma grande. Vezeu ma sheyesh lahem osher vekavod beribui meod. Per questo troviamo che anche ciò che corrisponde alla klipa, cioè contrapposto alla volontà di HaKadosh Baruch Hu, troviamo grande ricchezza e grande onore, beribui meod, in grandi volumi, shelo al pi cheshbon klal, senza alcuna proporzione. Cheshbon è il calcolo, la proporzione in base al merito. Tu dici, che merito ha questo per meritare tutta questa bellezza, tutta questa grandezza, tutta questa bontà? È completamente fuori ogni proporzione. Kmoshe katuv, come è scritto nell'Ecclesiaste, nel Coelet, chi en maase vecheshbon vedaat vechochma bisheol. Nel Sheol, cioè nel male, non c'è un atto che può essere considerato un resoconto, cheshbon, o daat, consapevolezza, o chochma, saggezza nel Sheol. Cioè non ci sono regole. Cioè, vehainu shemekablim shelo al pi cheshbon, ricevono questo flusso, questo bene dal divino senza passare per un cheshbon, per un determinato tipo di meritocrazia. Non è una meritocrazia. Perché? Approfondiamo un pochino. Ne ita bei meorei or, in un'opera di Kabbalah che si chiama Meorei Or, è scritto cheshbon, il concetto di resoconto, cheshbon, rendere conto, dare un cheshbon, come si dice cheshbon? Conto. Dare conto. Nikreta chochma al shem amachshava. Cheshbon si chiama chochma perché è incluso nel concetto di machshava, pensiero. Machshava, se ci pensiamo, è la stessa radice, la chashov, pensare, la stessa radice di cheshbon. Sempre quelle lettere sono di conto. Quindi possiamo legare Cheshbon, il conto, con la Chochmah, la saggezza che è il motore della Machshava, del pensiero. Machshava e Cheshbon. Cosa c'entra? La Gemara dice, Ubi Gemara, il Talmud dice al Pasuk, Al Ken Yomeru HaMoshlim Bou Cheshbon, c'è scritto nella Torah, che coloro che fanno moshlim, sono coloro che fanno mashal, fanno le parabole, fanno le metafore, dicono bo cheshbon, venite a fare, venite a cheshbon. Cheshbon era il nome di un luogo, però a livello metaforico dicono andiamo a fare i conti. La resa dei conti. Cosa è la resa dei conti? La Gemara dice bo venachshov cheshbono shel olam. Facciamo i conti del mondo, cioè degli atti che effettuiamo in questo mondo. Vediamo, facciamo la resa dei conti. Facciamo il calcolo, quanto vale hefsed mitzvah, la perdita di una mitzvah, neged sechara, in visione di quanto può essere la ricompensa. Cioè, la perdita, quanto devi spendere, per esempio, per una mitzvah, ma quanto poi sarà la ricompensa, il ricavo. Oppure, ushar haverah, quale sarà la ricompensa, cioè il benessere sentito da te nel momento in cui fai un haverah, un peccato, rispetto a neged efsedah, rispetto a lasciare quel peccato, perderlo, quanta è la differenza? Facciamo la rendita dei conti. Quando siamo nel mondo della Chochmah, quando siamo nel mondo della Kedushah, possiamo fare cheshbon, possiamo fare un conto, possiamo prendere in considerazione. Sì, sono tentato a fare questa verà, però devo considerare cosa sarà il ricavo, cosa sarà il risultato. E fare un bilancio tra le due cose. Ugualmente, sì, faccio questa mitzvah, mi richiede molto, mi richiede una fatica, mi richiede un impegno, mi richiede una difficoltà. Però quale è invece l'altro lato? Quando posso fare questo pensiero, ma hashava, la hashov, quando posso fare questo cheshbon? Quando sono sotto l'ambito di chokhmah, di consapevolezza, chiamata chokhmah, saggezza. Che siamo nel mondo della Torah, nel mondo di come le cose dovrebbero essere. Chokhmah deoraita, cheshbon viene dalla chokhmah della Torah, la Torah deriva dal livello di Chochmah di Akadosh Baruch Hu, e questo si chiama nella Kabbalah Kav Hamidah, Vehu Bechinat Kav Hamidah. Kav Hamidah vuol dire una misura, come dire un metro. Che misura? E che dice? Qui c'è merito, qui non c'è merito. Qui c'è merito tot, qui c'è merito tot, eccetera, eccetera. La linea dei valori, diciamo. Un'unità di misura. È un'unità di misura. Shemisham nimshechet hamidah ve'akitzbah. Da questa linea derivano le misure. Come si chiama? Hamidah? No? Kav. Kav è una linea. Cav. Come dire un metro. Cav. Che misura? Hamidah, la misura, ve'akitzbah, è il limite. Ogni cosa delineata al kolash paot ruchaniot vegashmiot, relativamente a ogni flusso che deriva da lì, che sia materiale, che sia spirituale, ogni cosa è precisa, precisa secondo il metro che misura. E la metafora si allarga anche al concetto di peso e di misura di dimensione. Dice cosa... Cosa si intende a livello spirituale per peso, per misura? Molto interessante, adesso vediamo. In Yana Mishkal ve Amida, l'idea del peso e della misura a livello dimensione, spiritualmente, cosa vuol dire? Applicato al mondo spirituale, si intende Beofena it kallelut chesed ugevura. Quando noi facciamo una ricetta e pesiamo quanta farina, quanta acqua, eccetera, a livello spirituale questo si intende dire quanta chesed, quanta gevurah. Perché c'è una fusione tra le varie sostanze, quindi spiritualmente tra i vari attributi, le varie caratteristiche con le quali Kadosh Baruch Hu si dimostra o manda a noi il suo flusso. Allora, quanta chesed, quanta bontà, insieme a quanta gevurah, quanta disciplina, quanto rigore. Qual è la misura, qual è la ricetta? Dipende da questa Machshava, da questo cheshbon che deriva da Chochmah, è tutta una struttura. Ecco, Beofen, secondo quanto si mischiano, si fondono insieme la Chesed al Gevurah, ognuna è diversa, ogni volta c'è una misura, una proporzione diversa. Beit Gabberut, de Midah Achat al Zulatà. Qual è quella prevalente nella ricetta, tra virgolette, specifica? Prevale la Gevurah, prevale il Chesed e le varie sfumature, ovviamente stiamo dicendo a livello molto generale, però le sfumature sono miliardi. Umise nimshechet medida be'ashpa'at amidot anal. E così poi viene, deriva dall'alto verso il basso questo flusso in base a questi tratti, come sono, quali sono dominanti, quali sono le misure, eccetera. Che mo, per esempio, be'ashpa'at baneh hayom mizoneh, quando una persona gli viene concesso figli, vita, prosperità, sostentamento, quanto, come, kamati ashpa, ubeise ofen, quanto sarà il flusso, in che maniera sarà il flusso? Come si dice nel Talmud, mesonotav shel adam ketzuvim lo me Rosh Hashanah. Talmud dice nel trattato di Beitza, da Rosh Hashanah si stabilisce il sostentamento della persona di quell'anno. Ok? Oppure abbiamo un altro detto nel Talmud, nel trattato di Rosh Hashanah, Adam nidon bechol yom. L'uomo è giudicato ogni giorno, giudicato nel senso cosa sarà il suo flusso che riceverà quel giorno, è giudicato ogni giorno. Un'altra versione dice kol sha'a, ogni ora. Allora quando è? Infatti. Allora questa è una parentesi, si spiega in altre fonti che c'è un aspetto generale e poi un aspetto più specifico. Ecco perché Rosh Hashanah c'è la cosa generale, ma poi quando arriva quel mese bisogna vedere se siamo in grado che quello che è stato deciso a Rosh Hashanah sia veramente applicabile ancora, in base alle nostre azioni, al nostro comportamento. Quindi c'è un piccolo giudizio ogni giorno, uno più importante ogni Rosh Chodesh, e quello più importante di tutto l'anno a Rosh Hashanah. Quindi sono, diciamo, gradi del giudizio. Però questa è una parentesi. Il punto è, She'adin ve'amishpat hu alpi ma'asav ve'avodato. Quando si parla di giudicare, si giudica l'uomo, il giudizio della persona. Cosa si intende? Si intende che si considerano le sue azioni, i suoi comportamenti, ofen kazenim shechalo ashpa, e in base al suo comportamento gli deriva, gli arriva quel flusso. Al pia mishkal, secondo la bilancia de chesed u gevurah, quello che abbiamo detto prima. Se in Beit Gabberut HaChassadim, se riceve la sua vita, che già quella è una cosa che riceve, questo flusso di energia vitale, ma in che maniera lo riceve? Con una prevalenza di Chesed o Chas V'Shalom, mai sia con una prevalenza di Gevurah. Può essere in un modo, in un altro, in base a questo Cheshbon, questo famoso conto. Sì. Perché hai detto Chas V'Shalom Gevurah? Non è l'altra componente con cui... Sì, quando dice Chas V'Shalom intende dire quando una persona proprio vive difficoltà. No, perché pensavo che... Che magari è per un flusso con una grande prevalenza di Gevurah e si esprime in questa maniera nella sua vita, allora dice Chas V'Shalom, speriamo che non sia... Perché sono le due componenti anche certo, le nostre. Si basa su tutto, così si basa... come anche Kadosh Baruch Hu. Esattamente, esattamente. Qui stiamo parlando non di Gevurah come concetto astratto, ma come Gevurah nell'esperienza della persona, cioè che viene... Il risultato di una cosa. Sì. Moshika, tu... qui è negativo. Sì, si intende qui un flusso che si esprime in maniera negativa in base a un comportamento non idoneo della persona. Dimmi. Sì o no? No, per cui non riesco a questo. Per cui praticamente se uno ha teoricamente una vita difficoltosa è frutto di qualcosa. Non abbiamo ancora concluso. Vediamo un attimino. Sì, no. Sono tribolato. Non, nessuno deve aver paura. State tranquilli. Mettete la cintura di sicurezza. Quello è sicuro. Sarà tutto a posto. One moment. Moshe Katuv, c'è scritto nel Iov, Giobbe. Vehu misibot mitapech betachbulotav lefaolam. E lui, il Signore, mitapech. E lui, scusate, non è riferito al Signore, si è riferito a un angelo. Per motivi, misibot, messibot, per diverse motivazioni, mitapech betachbulotav lefaolam. Si cambia, si altera, secondo della sua, di quello che lui discerne, le fa olam secondo le loro azioni degli uomini. Qui si parla nel Iov, nel versetto precedente, era scritto che si fa riferimento a un angelo che è incaricato a smuovere le nuvole, ok? E dice che muove di qui, qui c'è la pioggia, lì c'è la pioggia, e poi però altera. Tutto può essere, può cambiare in base a che cosa le fa olam, in base alle loro azioni degli uomini. Cioè, il flusso deriva dall'alto anche in base a quello che è il nostro comportamento. E Rashi dice, quando commenta questo versetto, cita i nostri maestri che dicono nel trattato di Rosh Hashanah, nel Talmud, Peresh Rashi, Peresh Rashi shezeo che ma'amar rabotenu zichronam bevracha, Harei she'ayu Israel tzadikim berosh Hashanah. Il Talmud dice così: se per esempio gli ebrei erano meritevoli durante il giorno di Rosh Hashanah, upasku alehem geshamim merubim, e hanno ricevuto una, c'è stata una decisione in alto, che quell'anno avrebbero avuto molte piogge, molto bene. Sof chazru, se poi nel corso dell'anno il loro comportamento però è cambiato, non sono più così meritevoli, cosa succede? Moridan shelo bismanan ala aretz sheinatzricha lahem. Quella pioggia che è stata decisa che avrebbe dovuto scendere, piove, arriva quella pioggia, però in un momento che non serve a niente, in un luogo dove non è necessaria la pioggia. Ve kasher lo hayum mukhsharim. Mentre invece se a Rosh Hashanah non erano degni della Berakha. Upasku alehem muatim. E forse la decisione è stata che ci sarà poca pioggia. Però la Sof Chosru, nel corso dell'anno hanno invece fatto Teshuvah e sono tornati a un comportamento più idoneo. Allora quella poca pioggia che è stata decisa, Moridan bismanana l'aretz azrichalem. Anche se è poca, ma se arriva nel momento giusto, sulla terra giusta, arriva la Berakha. In altre parole, ci sono, anche se abbiamo detto che le cose sono decise da Rosh Hashanah, rientriamo in quella parentesi che facevamo prima, non è detto che sia tutto così inciso nella pietra. Le cose cambiano anche all'interno di queste decisioni. Questi ce l'abbiamo nello Shema, tutta questa storia. Qua. Verissimo, ce l'abbiamo nello Shema. Esattamente, esattamente. Vabbè. Vero, ce l'abbiamo nello Shema. Allora stiamo dicendo qui, e poi approfondiremo ancora, perché qui stiamo vedendo tutta la cosa da un punto di vista strutturale cabalistico. E approfondiremo per capire in che mondo, in che maniera tutto questo tutto questo funziona. Stiamo dicendo che quando si è all'interno della struttura voluta, allora è chiaro che le cose sono più severe. Più severe intendo dire più chiare, più delineate. C'è Chesed, c'è Gevurah, c'è la fusione tra Chesed e Gevurah e tutto quanto. Poi arriveremo a dire più avanti, quando ci si pone all'esterno della struttura, allora non ci sono regole. C'è Rav Chesed. Rav Chesed. C'è un Chesed generale che continua a generare bene senza distinzione. Ma sei fuori Ma sei fuori dallo schema. È come quei... come quel banchetto, no? Che abbiamo fatto la metafora del banchetto. Che può darsi che uno mangia più di quanto ha mangiato in tutto l'anno, però il banchetto non era per lui. Gli arriva in maniera automatica, simile a questo concetto qui. E qui perché qui c'è consapevolezza. Qui parliamo di Heshbon. Heshbon, Chochmah, sei dentro. E allora qui serve, cioè è fondamentale, le mitzvot servono a, e quindi il servire Hashem serve sì solo a purificarsi, ma anche a lui cambia a questo punto, perché abbiamo lui? Detto l'altra volta ad Hashem stesso, abbiamo detto che le mitzvot, le cose non gli cambiano niente, pure se tu sei saggio o meno, a lui cosa cambia? È talmente in una sfera. Allora perché adesso dici che gli cambia? Sì. Allora se sei dentro lo schema, allora sì, c'è la ricompensa, c'è la cosa, c'è la berakà, cioè dentro lo schema è diverso che se sei fuori, anche a livello di come Hashem percepisce il come noi lo serviamo. Non so, allora, è una domanda molto interessante e profonda. Cioè, tu stai dicendo, in se base a quanto cambia, abbiamo anche, detto... anche per Hashem, non è vero che non gli serve. Vero, è come se servisse anche ad Hashem questa o cosa, perché lui... lo percepisce, l'abbiamo detto l'altra volta, lui non... cosa gli cambia? Oh, ok, ottimo, hai fatto molto bene a fare questa osservazione, perché abbiamo detto l'altra volta che, in teoria, abbiamo citato la Gemara... Esatto, tante cose abbiamo citato. E varie altre citazioni... A lui non cambia nulla da Kadosh Baruch Hu, se tu shachti da questa parte, esatto. Da quella parte, cosa gli cambia? Le mitzvot sono per noi, esatto. Abbiamo detto. Questo è sempre valido. Però, quando noi diciamo a lui non cambia, è come simile a quanto si dice per Kadosh Baruch Hu, tutta la creazione non cambia. Certo. Noi pensiamo ad Kadosh Baruch Hu, pensiamo di lui sui nostri termini. Ma noi siamo all'interno della creazione. Ieri. Sì? Noi pensiamo sui nostri termini e di conseguenza associamo lui sempre alla creazione, a noi, al mondo. Kadosh Baruch Hu è grande anche senza creare il mondo. Questo certo. E questa grandezza rimane prima della creazione e dopo della creazione in maniera immutata. Ani Hashem lo shaniti, abbiamo anche citato. Io non mi sono mai cambiato. Non è che è successo qualcosa. Come se tu dicessi, e tu crei un qualcosa, un robot, un programma di computer, e visto che l'hai creato tu, quello dipende esclusivamente da te, ma tu non dipendi da quello. Tu hai tutta una vita oltre a quella cosa che hai fatto. Per quella cosa tu sei tutto, e quindi sembra che tu esisti solo per quello. Ma al di fuori di quel schema, di quello schema, tornando a noi, sì. Cosa intendo dire? È sempre valido che per lui, tra virgolette, non serve e non gli cambia, eccetera. Quando noi parliamo di un livello trascendente del divino, questo è sempre valido. Però c'è il din, c'è comunque. Cosa vuol dire? Vuol dire che HaKadosh Baruch Hu sceglie di entrare in questo dettaglio, tra virgolette. Questo. Quando si dice non gli cambia, vuol dire a livello filosofico che non è forzato ad essere in quegli schemi, ma può scegliere di entrare in quel dettaglio, di entrare in quel discorso, di scendere, di far scendere la sua, il suo flusso, la sua luce, la sua illuminazione, la sua energia verso quella direzione. Il punto è che non è una cosa che lo definisce, è una scelta che lui... che lui prende. Così come questa anche è la noi differenza. Ci dobbiamo chiedere di essere... Esattamente. Così come anche noi possiamo scegliere poi di essere... scegliere una determinata maniera di un comportamento, eccetera. No? Quindi le due cose sono valide, ma dipende di che aspetto stiamo parlando. No? Quindi tornando al discorso, sì. Legale, se il malvagio riceve solo chesed, no? Mm-hmm. Turia si dovrebbe mettere un attimo paura. Perché se si analizza dice oh c'è aspetta un attimo, c'è un versetto che dice chi et asher yohav Hashem yochiach, colui che è amato dal Signore, il Signore lo bastona tra virgolette. Perché ti ama, mai sia, però il concetto di Heshbon, non siamo noi i Non possiamo sapere. I contabili che fanno questo cheshbon. Perché ci sono miliardi di fattori da prendere in considerazione, che chiaramente non avrebbe alcun senso se noi fossimo lì a dire ok, allora questo vuol dire questo vuol dire per quello. Fortuna nemmeno che piace. Anche per fortuna, certo, se no saremmo impazziti. Sì. Ok, quindi non è questo, però tornando a quello che stiamo dicendo qui, qui si cita il Zohar. Il Zohar dice, qui c'è tutto un brano qui in aramaico del Zohar, lo dice così, Ube Zohar al Pasuk Ze, su questo stesso versetto di Giobbe che abbiamo detto di Yov, che per diverse motivazioni si possono alterare le cose in base al nostro comportamento, il Zohar dice, HaKadosh Baruch Hu mesabev sibuvin, ve'aiti ovadin be'alma, HaKadosh Baruch Hu crea delle situazioni, e porta dei dei fatti, ovadin, delle cose che vengono messe in atto, ule batar de chashivo benenasha, dopo che la gente prende in considerazione dit kaimu in un ovdin, le persone pensano che quelle realtà, quei fatti che lui, HaKadosh Baruch Hu, ha messo in atto, la gente potrebbe sbagliare e pensare che sono cose che yitkayem, che saranno per sempre. Questo è il status quo e così sarà. Cosa fa Kadosh Baruch Hu? Kudsha berichu, Kadosh Baruch Hu, me'apechlon li inun ovadin. Rovescia tutte quelle realtà, tutti quei fatti. Mikemade avab kadmita, da come erano all'inizio. E poi i fatti diventano tutto diverso. Come uno che va avanti tutta la vita, dice, vabbè, funziona così, funziona così, funziona così. Un giorno tutto funziona a rovescio. Che fai adesso? Pensaci. Cioè, spiega nella parentesi, HaKadosh Baruch Hu chiama le generazioni, cioè crea una generazione, un'altra generazione. Ci sono alcuni che credono di vivere per sempre, metaforicamente, di stare sempre bene, o anche come erano alcune generazioni importanti come quelle del diluvio, che vivevano molti anni, secoli, eccetera, pensavano di essere ormai immortali. Poi c'è stato però il diluvio, tutto rovesciato, tutto cambiato. Un piccolo diluvio accade anche a noi durante il corso della nostra vita ogni tanto, che ci cambiano i parametri delle cose. E dice de ihu tikla di staharat kamei, è come se fosse una un tipo di cosa che gira. Vi spiego di cosa si tratta, non so come si dice in italiano, è quando si fa un vaso di coccio, per esempio, gira su un per essere modellato, come si chiama? Abbiamo capito, sì, l'abbiamo capito. Sì, sì. Un mulinello, tipo un mulinello che gira davanti a te, sì. E tu, questo ti aiuta a dare forma all'oggetto che stai creando, no? Dalla terracotta. Mm-hmm. Oh. Allora il Zohar usa questa metafora qui e dice davanti a Kadosh Baruch Hu, ma sì, non facciamo la metafora letterale, però lui ha questa cosa che gira davanti a lui. E in base alle azioni delle persone, dice, immettivin benenasha of deon, se la gente si comporta in maniera positiva, allora la fa girare le yamina, verso destra. No? E allora i fatti sul campo sono fatti che prendono l'energia dal chesed, da destra associata con chesed. Quando invece si comportano in maniera opposta, allora gliela fa girare verso sinistra. Ecco perché si dice come gli gira. Da qui deriva. Gli fa girare verso sinistra e cambia, altera tutte le cause, tutti gli effetti di questo. Adibne nasha taivin le otava, finché tornano come teshuva alla parte positiva, e cambia di nuovo il giro di questo diciamo sterzo che gira, no? Allora il Rebbe Rashab spiega qui cos'è questo giro, cos'è uno scherzo, è una storiella. Nel linguaggio della Kabbalah lui dice questo si chiama Malchut di Azilut, l'ultimo delle 10 Sefirot del primo mondo di cui abbiamo già parlato in passato, del mondo di Azilut, che è la fonte attraverso la quale tutto il bene deriva verso i mondi veri e propri, Beriah, Yetzirah, Siah, proprio quello che possiamo chiamare la creazione, sui vari livelli, che arriva al mondo dell'azione, questo mondo. E questo Malchut, questa fonte di bene, di flusso, gira in base al comportamento. Può girare verso un lato, può girare verso un altro lato. E, da questo punto di vista, la cosa è tutta in base al comportamento nostro. Stavo chiedendo questa domanda. Allora vuol dire che quando le cose funzionano secondo il Heshbon, con cui abbiamo iniziato il discorso oggi, secondo questo conto, secondo questo metro, allora c'è un limite, perché si va secondo il comportamento della persona. Ma nei termini infiniti, dal punto di vista trascendentale della luce divina, anche il peccatore, anche chi va tutta la vita contro la volontà di HaKadosh Baruch Hu, può beneficiare di quel bene che appartiene al livello trascendentale, che non entra in questo Heshbon. E questo approfondiremo. È come la pioggia. Come la pioggia, bravo. Che fallo. C'è una cosa. Questo approfondiremo nella prossima. Se ti protegge o non ti protegge la pioggia. Uh-huh. La pioggia casca uguale. Questo approfondiremo nella prossima lezione. Due aspetti di questo Heshbon e il contrasto con invece quello che è al di là del Heshbon, cioè quello che chiamiamo trascendente o nel linguaggio della Kabbalah Makif, circonda, trascende. Approfondiremo di più la prossima volta.